ad alta voce. Alba Rohrbacher legge Agostino di Alberto Moravia. Ora Agostino provava un'invincibile ripugnanza a vedere accresciuta dai sogni in comune quella già tanto penosa promiscuità con sua madre. Tutto quello che ora sospettava appena pensava, si sarebbe trovato ad un tratto, in virtù di questa nuova e maggiore intimità, esposto senza rimedio ai suoi occhi. Egli doveva, a guisa di contravveleno, presto, molto presto, frapporre tra sé e la madre l'immagine di un'altra donna a cui rivolgere, se non gli sguardi, almeno i pensieri. Quest'immagine, che gli avrebbe fatto da schermo alla nudità della madre e in un certo modo gliel'avrebbe spogliata di ogni femminilità, restituendola alla sua antica significazione materna, doveva fornirgliela una di quelle donne della villa. Come poi sarebbe riuscito a penetrare e a farsi ammettere in quella casa, come si sarebbe regolato per scegliersi la donna e con lei appartarsi, di tutto questo Agostino non si dava pensiero. O meglio, anche se l'avesse voluto, non avrebbe saputo immaginarlo. Perché, nonostante le informazioni del Tortima, tuttora la villa, le sue abitatrici, le cose che vi accadevano, restavano avvolte per lui in un'aria densa e improbabile, come se si fosse trattato non già di concrete realtà, ma di arrischiatissime ipotesi che all'ultimo momento potevano anche rivelarsi sbagliate. Il successo dell'impresa era così affidato ad un calcolo logico. Se c'era la casa, c'erano anche le donne. Se c'erano le donne, c'era anche la possibilità di avvicinarne una. Ma non era sicuro che la casa e le donne ci fossero e comunque rassomigliassero all'immagine che se ne era fatta. E questo non tanto perché non prestasse fede al Tortima, quanto perché gli difettavano completamente i termini del paragone. Nulla aveva mai fatto, nulla aveva mai visto che, sia pure in maniera lontana e imperfetta, avesse qualcosa in comune con quanto stava per intraprendere. Come un povero selvaggio cui si parli dei palazzi d'Europa e lui non sappia vederli che in forma di capanne più grandi della sua, così egli non sapeva, per raffigurarsi quelle donne e le loro carezze, che pensare a sua madre. Poca cosa e diversa. E tutto il resto era vagheggiamento, congettura, velleità. Ma come avviene? L'inesperienza lo faceva preoccupare soprattutto degli aspetti pratici della questione, quasi che, risolvendoli, avesse potuto anche risolvere il problema della complessiva irrealtà della faccenda. In particolar modo l'angustiava il fatto dei soldi. Il Tortima gli aveva spiegato con molta precisione a quanto ammontasse la somma da pagare e a chi avrebbe dovuto pagarla. Tuttavia egli non riusciva a capacitarsene. Che rapporto c'era tra il denaro, che serve di solito ad acquistare oggetti ben definiti e di quantità riscontrabile, e le carezze, le nudità, la carne femminile? Possibile che ci fosse un prezzo e che questo prezzo fosse davvero esattamente delimitato e non variasse secondo i casi? L'idea del denaro che avrebbe dato in cambio di quella vergognosa e proibita dolcezza gli pareva strana e crudele, come un'offesa, forse piacevole per chi la recava, ma dolorosa per chi la riceveva. Era proprio vero che doveva consegnare quel denaro direttamente alla donna e comunque in sua presenza? Gli sembrava che in qualche modo avrebbe dovuto nasconderglielo e lasciarle l'illusione di un rapporto disinteressato. E finalmente, non era troppo esigua la somma indicata dal Tortima? Non c'era denaro abbastanza, pensava, per pagare un'esperienza come quella che a lui doveva concludere un periodo della vita e dischiuderne un altro. Di fronte a questi dubbi, decise alla fine di tenersi strettamente alle informazioni del Tortima, forse fallaci, ma le sole in ogni caso su cui potesse fondare un piano d'azione. Si era fatto dire dal compagno il prezzo della visita alla villa, e la cifra non gli era sembrata superiore a quella dei suoi risparmi da lungo tempo accumulati e conservati in un salvadanaio di terracotta. A forza di spiccioli e di biglietti di piccolo taglio, quella somma doveva averla certamente raggranellata e forse anche superata. Egli pensava di togliere il denaro dal salvadanaio, aspettare che sua madre fosse uscita per andare a prendere l'amica alla stazione, uscire a sua volta, correre a cercare il Tortima e con lui recarsi alla villa. I soldi, poi, dovevano bastare non soltanto a lui, ma anche al Tortima, che sapeva povero, e ad ogni modo pochissimo disposto a favorirlo senza il contraccambio di un tornaconto personale. Questo era il piano. E sebbene continuasse a vederlo disperatamente lontano e improbabile, deliberò di mandarlo ad effetto con la stessa precisione e la stessa sicurezza che se si fosse trattato di una passeggiata in barca o di qualche scorribanda nella pineta. Eccitato, ansioso, liberato per la prima volta dal veleno del rimorso e dell'impotenza, Agostino fece quasi di corsa, attraverso la città, tutta la strada dalla piazza a casa sua. La porta di casa era serrata, ma le attigue persiane della finestra a pian terreno del salotto erano aperte. Dal salotto giungeva la musica di un pianoforte. Egli entrò. La madre sedeva davanti alla tastiera. Le due deboli lampadine del pianoforte le illuminavano il viso, lasciando nell'ombra gran parte della stanza. La madre suonava dritta sopra uno sgabello senza spalliera, e accanto a lei, su un altro sgabello, sedeva il giovane del pattino. Era la prima volta che Agostino lo vedeva in casa, e un subito presentimento gli fece mancare il respiro. La madre parve avvertire in qualche modo la presenza di Agostino, perché voltò la testa con un calmo gesto pieno di ignara civetteria. Una civetteria, così almeno gli parve, rivolta più al giovane che a lui, che sembrava esserne l'oggetto. Vedutolo, ella cessò subito di suonare e lo chiamò appresso di sé. «Agostino, a quest'ora ti presenti, vieni qui». Egli si avvicinò lentamente, pieno di ripugnanza e d'impaccio. La madre lo attirò a sé, cingendogli tutto il corpo con un braccio. Agostino vide che gli occhi della madre brillavano straordinariamente, di un fuoco giovanile e scintillante. Anche nella sua bocca pareva esitare un riso trepido che le bagnava i denti di saliva. E nel gesto di cingerlo con il braccio e di attirarlo al proprio fianco, avvertì una violenza impetuosa, una fremente gioia che quasi lo spaventarono. Erano, non poté fare a meno di pensare, espansioni che non lo riguardavano affatto, e facevano stranamente pensare alla sua eccitazione di poco prima, quando, correndo per la strada della città, si era esaltato all'idea di prendere i suoi risparmi, recarsi con il Tortima alla villa e possedervi una donna. «Dove sei stato?» continuò la madre con una voce tenera, crudele e allegra. «Dove sei stato sino adesso, cattivo, cattivo che sei?» Agostino non disse nulla, anche perché gli pareva che la madre non aspettasse alcuna risposta. A quel modo, egli pensò ancora, ella parlava talvolta al gatto di casa. Chino in avanti, le mani riunite tra le ginocchia e la sigaretta tra due dita, gli occhi non meno scintillanti di quelli della madre, il giovane lo guardava e sorrideva. «Dove sei stato?» ripeté ancora la madre. «Cattivo, vagabondo che sei!» Con la grande, lunga mano calda, in una carezza di tenera e irresistibile violenza, ella gli scompigliò i capelli, riconducendoglieli poi sulla fronte. «Non è vero che è un bel ragazzo?» soggiunse con fierezza rivolta al giovane. «Bello come la madre», rispose il giovane. La madre rise pateticamente di questo semplice complimento. Turbato, pieno di vergogna, Agostino fece un gesto come per svincolarsi. «Vai a lavarti», disse la madre, «e fa presto perché tra poco si va a tavola». Agostino salutò il giovane e uscì dal salotto. Subito, alle sue spalle, ripresero le note della musica al punto preciso in cui il suo ingresso le aveva interrotte. Ma una volta nel corridoio, si fermò e indugiò ad ascoltare quei suoni che le dita materne sprigionavano dalla tastiera. Il corridoio era buio e afoso. In fondo al corridoio si poteva vedere, attraverso la porta aperta, nella cucina illuminata, la cuoca vestita di bianco che si muoveva lentamente nelle sue faccende, tra il tavolo e i fornelli. Intanto la madre suonava, e la musica pareva ad Agostino vivace, tumultuosa, scintillante, in tutto simile all'espressione degli occhi di lei mentre lo aveva tenuto stretto al suo fianco. Era, forse, proprio una musica di quel genere. Ma forse era la madre che ci metteva quel tumulto, quello scintillio, quella vivacità. Tutta la casa rintronava di questa musica. E Agostino si sorprese a pensare che anche nella strada ci dovessero essere capannelli di persone ferme ad ascoltarla ed a meravigliarsi della scandalosa impudicizia che traspirava in ciascuna di quelle note. Poi, tutto ad un tratto, a metà di un accordo, i suoni si interruppero, e Agostino fu sicuro, in una maniera oscura, che l'impeto che traspariva nella musica aveva trovato improvvisamente uno sfogo più adeguato. Tornò due passi indietro e si affacciò sulla soglia del salotto. Quello che vide non lo meravigliò molto. Il giovane stava in piedi e baciava la donna sulla bocca. Rovesciata indietro sul basso ed esiguo sgabello dal quale, d'ogni parte, traboccava il suo corpo piegato, ella teneva ancora una mano sulla tastiera e con l'altra cingeva il collo al giovane. Nella poca luce si vedeva come il corpo di lei si torcesse indietro, il petto palpitante in fuori, una gamba ripiegata e l'altra tesa a premere il pedale. A contrasto con questa violenta dedizione, il giovane pareva conservare la solita disinvoltura e compostezza. In piedi, girava un braccio sotto la nuca della donna, ma, si sarebbe detto, più per timore di vederla cadere indietro che per violenza di passione. L'altro braccio gli pendeva lungo il fianco e la mano stringeva tuttora la sigaretta. Le sue gambe vestite di bianco, ben piantate e aperte, una di qua e l'altra di là, esprimevano uguale padronanza di sé e deliberazione. Il bacio fu lungo, e parve ad Agostino che ogni volta che il giovane voleva interromperlo, la madre, con insaziata avidità, lo rinnovasse. Veramente, egli non poté fare a meno di pensare, ella pareva affamata di quel bacio, come chi ne è stato troppo a lungo digiuno. Poi, in un movimento che ella fece con la mano, una, due, tre note gravi e dolci suonarono nel salotto. Subito i due si separarono. Agostino mosse un passo nel salotto e disse «Mamma!». Il giovane fece una giravolta e andò a mettersi con le due mani in tasca, a gambe larghe, sulla soglia della finestra, come assorto a guardare la strada. «Agostino!», disse la madre. Agostino si avvicinò. La madre ansimava con una tale violenza che le si vedeva distintamente il petto levarsi e abbassarsi sotto la seta del vestito. Più che mai brillavano i suoi occhi. Aveva la bocca semiaperta e i capelli in disordine. Una ciocca molle e aguzza, viva come un serpente, le pendeva lungo la guancia. «Che c'è, Agostino?» Ella ripeté con voce rotta e bassa, accomodando alla meglio i capelli. Agostino sentì ad un tratto una pietà tutta mescolata di ripugnanza opprimergli il cuore. «Ricomponiti», avrebbe voluto gridare a sua madre. «Calmati, non ansimare a quel modo. Poi parlami, ma non parlarmi con questa voce». Invece, in fretta, e quasi esagerando apposta la puerilità della voce e della sollecitudine, «Mamma», domandò, «posso rompere il salvadanaio? Voglio comprarmi un libro». «Sì, sì, caro», ella disse e porse una mano a fargli una carezza sulla fronte. Agostino, al contatto di quella mano, non poté impedirsi di fare un balzo indietro, leggero e quasi impercettibile, che gli parve violento e visibilissimo. «Allora lo rompo», ripeté. E con passo rapido, senza aspettar risposta, uscì dal salotto. Di corsa, su per i gradini scricchiolanti di sabbia, andò in camera sua. L'idea del salvadanaio non era stata che un pretesto, in verità non aveva saputo che dire di fronte alla mamma così sconvolta. Il salvadanaio stava sul tavolo, in fondo alla stanza buia. La luce del fanale, entrando per la finestra aperta, ne illuminava la pancia rosa, con quel suo largo sorriso nero. Agostino accese il lume, afferrò il salvadanaio e, con una specie di isterica violenza, lo sbatté contro il pavimento. Il salvadanaio si ruppe e vomitò, fuori dal largo squarcio, un mucchio di monete di ogni genere. Frammisti alle monete c'erano anche parecchi biglietti di piccolo taglio. Accosciato in terra, Agostino contò in furia i denari. Le dita gli tremavano, pur contando non poteva fare a meno di vedere sovrapposti, come confusi con le monete sparpagliate in terra, i due del salotto, la madre rovesciata indietro sul suo sgabello e il giovane chino su di lei. Contava, e talvolta doveva riprendere a contare per la confusione che quell'immagine provocava nel suo animo. Ma come ebbe finito di contare, scoprì che il denaro non raggiungeva la somma di cui aveva bisogno. Si domandò quel che dovesse fare. Per un momento pensò di sottrarre i denari a sua madre, sapeva dove li teneva e nulla sarebbe stato più facile. Ma quest'idea gli ripugnava e decise finalmente di chiederglieli, semplicemente. Con quale pretesto? Gli parve ad un tratto di averlo trovato. Nello stesso tempo udì risuonare il gong della cena. Mise in gran fretta il suo tesoro in un cassetto e discese a pian terreno. La madre era già seduta a tavola. La finestra era spalancata e grosse farfalle brune e pelose entravano dal cortile e venivano a sbattere le ali contro il paralume di vetro bianco della lampada. Il giovane era partito e la madre era tornata alla sua solita serena dignità. Agostino la guardò e di nuovo, come il primo giorno che ella era uscita in mare con il giovane del pattino, si meravigliò che non si vedesse su quella bocca la traccia del bacio che pochi minuti prima ne aveva compresse e separate le labbra. Egli non avrebbe saputo dire che sentimento provasse a questo pensiero. Un senso di compassione per la madre, a cui quel bacio pareva essere stato prezioso e sconvolgente. E al tempo stesso, un ribrezzo forte, non tanto per quello che aveva veduto, quanto per il ricordo che gliene era rimasto. Avrebbe voluto rifiutare questo ricordo, dimenticarlo. Possibile che dagli occhi potesse entrare tanto turbamento e tanta mutazione? Egli presentiva che quel ricordo gli sarebbe per sempre rimasto impresso nella memoria. Come ebbero finito di mangiare, la madre si levò e salì al piano superiore. Agostino pensò che quello era il momento buono, o mai più, di chiederle il denaro. La seguì ed entrò dietro di lei nella camera. La madre sedette davanti allo specchio della toletta e in silenzio vi studiò il proprio viso. «Mamma», disse Agostino. «Che c'è?» domandò distrattamente la madre. «Ho bisogno di 20 lire». Tanta era la somma che mancava. «Perché?» «Per comprare un libro». «Ma non avevi detto», domandò la madre passandosi pian piano il piumino di cipria sul viso, «che volevi rompere il salvadanaio?» Agostino ebbe una frase puerile. «Sì, ma se lo rompo, allora non ho più i soldi da parte. Vorrei comprare il libro e non rompere il salvadanaio. La madre rise con affetto. Sei sempre il solito bambino. Ella si guardò un momento nello specchio e quindi soggiunse. Nella borsa, sul letto, ci deve essere il portamonete. Prendi pure le 20 lire e rimetti dentro il portamonete. Agostino andò a letto, aprì la borsa, ne trasse il portamonete e da questo le 20 lire. Quindi, stringendo in pugno i due biglietti, si gettò sulla branda preparata per lui accanto al letto materno. La madre aveva finito di acconciarsi. Ella si levò dalla toletta e gli venne accanto. «E che cosa farai ora?» «Ora leggerò questo libro», disse Agostino prendendo a caso dal comodino un romanzo di avventure e aprendolo sopra un'illustrazione. «Bravo! Ma ricordati, prima di coricarti, di spegnere la luce». La madre fece ancora qualche preparativo, aggirandosi per la stanza. Supino, il braccio sotto la nuca, Agostino la guardò. Ora sentiva confusamente che non era mai stata così bella come quella sera. Il vestito bianco, di seta brillante, dava uno spicco straordinario al colore bruno e caldo della carnagione. Per un inconsapevole riaffioramento dell'antico carattere, ella pareva in quel momento aver ritrovato tutta la dolce e serena maestà del suo portamento di un tempo, ma con in più non si capiva che profondo, sensuale respiro di felicità. Ella era grande, ma parve ad Agostino di non averla mai veduta così grande, da riempire di sé tutta la stanza. Bianca nell'ombra della camera, ella si muoveva con maestà, il capo eretto sul bel collo, gli occhi neri e tranquilli, intenti sotto la fronte serena. Poi spense tutte le lampade, fuorché quella del comodino, e si chinò a baciare il figlio. Agostino sentì ancora una volta intorno a sé il profumo che ben conosceva, e sfiorandole il collo con le labbra, non poté fare a meno di domandarsi se quelle donne, laggiù nella villa, fossero altrettanto belle e così profumate. Resterà.